e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Maccherone, m'hai provocato, io me ne magno. Cuore e denari Expo. Ora eccoci qui, siamo arrivate all'ultima puntata di questo ciclo speciale di trasmissioni in cui abbiamo riascoltato il meglio del nostro reality Cuore Denari Expo. Sì, una puntata ricchissima in cui finiremo di ripercorrere questa avventura che ci ha aiutati, almeno speriamo per tutti, a diventare consumatori più consapevoli, attenti alla salute, al gusto, al risparmio quando si tratta di alimentazione. Mancano all'appello due delle otto categorie che rappresentano un po' tutti noi e che rappresentano i tantissimi ascoltatori che nei mesi scorsi hanno compilato il questionario di Cuore Denari. Mancano infatti la donna in gravidanza e la famiglia con figli. Ritroveremo anche gli ultimi due mestieri del cibo nella rubrica che ci ha permesso di scoprire le tante professioni che ruotano intorno alla nostra tavola. Ma partiamo allora con la nostra mamma in attesa e andiamo ad ascoltare le voci degli esperti che l'hanno seguita e consigliata. Presentiamo subito i nostri esperti di oggi, Nicoletta, cominciando con il professor Enrico Ferrazzi, direttore dell'unità di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Buzzi di Milano, che salutiamo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Grazie a lei. Claudio Colombo Severini, chef e autore delle ricette della zona mediterranea di Barry Sears. Buongiorno, eccoci grazie. Qua. E della dottoressa Morandi, con cui condividi il progetto Nutri Gourmet. Claudio, benvenuto. Diciamo che sei uno chef zonista, prestato al professor Ferrazzi per interpretare le sue indicazioni nutrizionali in chiave dieta mediterranea per una donna in gravidanza. Certamente, con onore. Con onore, vedi? Bene. E poi naturalmente abbiamo l'immancabile. È lui. Sì, qua, chi sono? Possiamo fare il quizzettone ai nostri ascoltatori con il numero verde. Lo riconoscete già dalla voce, che ormai è diventata assolutamente familiare, quella dell'immancabile, lo abbiamo ormai questa mattina definito così, dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, direttore scientifico di Eurosalus, la piattaforma che ospita i nostri questionari. Ben ritrovato. Bene a tutti, sì. Professor Ferrazzi, iniziamo da lei. Dai tempi delle nostre nonne molto è cambiato, per certi versi direi che abbiamo assistito a una vera rivoluzione. Siamo passati dal mangia per due a mangia due volte meglio, perché abbiamo capito che non bisogna puntare sulla quantità ma sulla qualità, e dato che l'alimentazione in gravidanza, e vogliamo sottolinearlo oggi in modo particolare, è proprio la base della salute del bambino e della sua vita futura, ma anche della qualità e dei buoni esiti della gravidanza stessa. E beh, certo, lei ha proprio centrato il problema. Oggi si è capito che la qualità dell'alimentazione non è soltanto lo stare bene in gravidanza, l'avere una buona gravidanza e un buon parto, è proprio costruire il proprio bambino bene, cioè il bambino che sarà un adulto sano. Se io mangio pesce, se mangio alimenti di qualità, anche il suo cervello sappiamo sarà diverso, sarà più performante, sarà migliore. Se mangio troppi zuccheri, se mangio troppi spaghetti, se mangio troppe cose dolci, carboidrati eccetera, no, a quel punto il mio bambino sarà un bambino che avrà rischio invece di avere poi da grande il diabete, le cardiopatie eccetera. Questi sono dati ormai chiarissimi e per fortuna le donne cominciano a capirlo, che non è solo il problema di non aumentare di peso o al contrario di sono in gravidanza posso ingrassare, nessuno mi dice nulla ormai, è proprio che l'ingrassare in gravidanza non vuol dire solo perdere la linea, ma vuol dire fare un bambino che avrà una salute diversa da grandi. Questo oggi sta entrando piano nella mente, nel cuore delle mamme. Interessante. Claudio, leggera, gustosa, equilibrata, nutriente, questi sono gli aggettivi che fanno la differenza per la nostra salute, ma ci vuole anche tecnica ed esperienza in cucina per dare ai piatti queste caratteristiche, e noi oggi poi insieme a Deborah e ai nostri esperti andremo anche a fare la spesa, perché scegliere è un passo importante. Claudio, come ci aiuterai, come aiuterai le donne in gravidanza? Naturalmente tutti possono approfittare dei consigli di è una dieta che non va bene solamente non è solamente specifica, no? Ah no, direi che è una dieta che fa star bene la mamma, i bambini, il padre, direi che vanno bene i per nonni, tutti. Cuoco, chef Claudio. Sì. Chiaramente il primo passo fondamentale per appunto quello di saper fare la spesa, per cui la conoscenza della materia prima è fondamentale per poi ottenere un piatto, un menù per la famiglia di gusto e di successo. Sì. Chiaramente l'utilizzo delle tecniche è fondamentale anche questo. Io un consiglio per la casa, per la quotidianità, è di utilizzare delle cotture rapide. Certo, per cui mettiamo, perché il tempo è poco, per cui lo sappiamo. Per me è un lavoro e lo svolgo tutti i giorni, vivo in cucina. A casa si vive nel quotidiano con altri ritmi. Con altri ritmi, esatto. Anche con altre padelle, con altri attrezzi. Sono fondamentali. Vero? Anche l'utilizzo del materiale, delle pentole, padelle è fondamentale. Dei metalli in cucina è un argomento molto, si potrebbe tranquillamente parlarne per ore. Ma noi anche se io dico che gli abbinamenti sfiziosi sono importanti, sono certo che dopo il professor Ferrazzi ci darà due indicazioni sulle voglie della sì. Gravida, della donna in gravidanza, che quindi saranno un elemento interessante da discutere per questo tipo di tema. Le nausea all'inizio e poi le voglie alla fine sono gli argomenti che scientificamente si stanno incominciando ad affrontare, capire perché la gravidanza all'inizio la donna rifiuta molti cibi ed è in condizione quindi di minimizzare il rischio. Dobbiamo pensare a 1000 anni fa, la nausea in una donna 1000 anni fa voleva dire minimizzare il rischio di mangiare cose che le facevano male, e quindi non abbiate paura se all'inizio avete nausea e dovete magari per 2 settimane mangiare soltanto 3 cose che sapete che non vi danno la nausea. Vuol dire che il vostro organismo ha paura di affrontare degli alimenti che possono dare infiammazione, irritazione, eccetera, perché è un momento molto delicato della gravidanza. Quindi la infiammazione e l'irritazione nella prima fase della gravidanza possono alterare come la placenta si sviluppa. Quindi non abbiate paura. Se per 2 settimane mangiate soltanto fagioli e riso integrale e una pera frullata, non importa. L'embrione è così piccolo che non ha bisogno di troppe calorie e troppe cose. Per la prima volta abbiamo un campione tutto di donne, che non si sa mai. Uomini di gravidanza, però non si sa mai, per come evolvono i tempi, eccetera. Quindi abbiamo 100% donne, giustamente, età media circa dei 32 anni, sono quindi mediamente abbastanza giovani. Giovani per Milano, generale. Per le gravide. E devo dire, tra tutte, devo dire che le più attive fanno un paio di giornate in cui camminano un pochettino a lungo. Quindi c'è una situazione globale di comunicazione del fatto che con la gravidanza c'è stata una riduzione dell'attività fisica, come se quello che ha detto Ferrazzi adesso è bellissimo, il fetino appena quando è piccolo in realtà il fagiolino può effettivamente è protettissimo, e quindi ci sono, io vedo in molte situazioni, in molte culture, in altri stati e nazioni c'è una dimensione in cui la corsa, cioè vedo donne che quindi mantengono viva questa attività. Qui invece nel nostro campione devo dire abbastanza limitato, quindi poca attività, ed è una situazione che dobbiamo andare a vedere. Tra tutte devo dire, considerando quelli che sono stati i cambi che hanno fatto rispetto all'essere in gravidanza, dovendo eliminare alcolici e insaccati, tendenzialmente per tutte l'eliminazione di birra e insaccati è anche la rinuncia che viene confessata come la più pesante da sopportare. Questo è un dato interessante. Abbiamo l'eliminazione, c'era una domanda specifica, l'eliminazione di birra e salumi è stata quella più pesante. E in realtà c'è una tendenza globale tra tutte che è un'espressione di una preoccupazione, che è quella di non tornare al peso, alla forma dopo la gravidanza, di non tornare effettivamente alla forma precedente. C'è come una sorta di preoccupazione della gravidanza e un'astensione dall'attività fisica. E poi vado a chiudere, fondamentalmente ricordo che i questionari sono sul sito di Eurosalus, che mi ha aiutato allo sviluppo come sempre il bravissimo Andrea Giordano, però c'è un'area specifica in cui tendenzialmente, e questo va a confermare quello che è emerso da tutti i lettori gli ascoltatori di Radio 24, c'è sicuramente la ricerca del top nella frutta e nella verdura, seguita poi dai formaggi che sono comunque molto amati, e seguiti poi da pasta, latte e carne. Le caratteristiche che vanno a cercare, questo è interessante, sono soprattutto l'aspetto di confezione, quindi etichetta, quantità, qualità del prodotto e poi i valori nutrizionali. Devo dire che in tutti i nostri questionari il rapporto prezzo è sempre sempre importante, considerato, ma la qualità vince sicuramente sul prezzo, e credo che questo sia un tema da tenere presente in modo importante. Un 20% acquista via internet. Gli sportivi solo erano più dinamici da questo punto di vista, probabilmente per evitare di portare pacchi e pesi a casa. È sempre una buona idea. Andiamo a conoscere la nostra neomamma? Andiamo con questa scheda. Patrizia ha 33 anni, è siciliana ma vive a Roma, dove lavora come libera professionista. A fine gennaio ho scoperto di essere incinta. È per te ogni cosa che c'è. Mi ero sposata da pochissimo, io e mio marito siamo stati felicissimi di sapere che subito stavamo aspettando una bimba. Aspettiamo un bambino! Oh mio Dio! Da quando ha scoperto di essere incinta, ha cambiato il suo stile alimentare. I primi mesi di gravidanza sono stati molto duri, ho avuto le solite nausee per più di 3 mesi e ho letto molto, ho chiesto consigli a degli specialisti che mi hanno invitata a pranzare utilizzando sicuramente più proteine e vitamine e invece la sera a seguire un regime alimentare con zuccheri e quindi pane, pasta, preferibilmente integrali. A casa di Patrizia la spesa la facciamo un po' io, un po' mio marito, sia al supermercato che in degli orti urbani. Abbiamo un contadino vicino a casa e quindi preferiamo comprare frutta e verdura dal contadino. La cosa che mi pesa di più sicuramente è non mangiare il prosciutto crudo, ma anche il salame romano e poi i pesci marinati, come per esempio le alici marinate, anche il pesce spada, il salmone marinato. Ecco, questa è stata una rinuncia e non vedo l'ora di partorire, non solo per vedere la mia bimba, ma anche per tornare a mangiare queste cose. Patrizia, sei la nostra candidata per la categoria delle donne incinte a Cuore Denari Expo. Sarà. Patrizia è in linea con noi, ciao, vogliamo conoscerla. Che bello. Buongiorno. Bella la scheda. Avete i gatti che fanno la cacca nel mare. Non capisco perché i pesci crudi non possono essere mangiati in gravidanza. Cioè, no, dico, se gatti così chiede? Noi non li abbiamo. Non abbiamo il mare a Milano, però gatti così non esistono. Quindi l'idea che in gravidanza non si possa mangiare il pesce marinato soprattutto è assolutamente sbagliata. No, signora, assolutamente. Lei, ma l'abbiamo visti anche un po' inalberarvi di fronte al, come dire, la concentrazione del carboidrato serale. Beh, sì, no, perché vuol dire mettere a magazzino troppi zuccheri quando non si. Gli zuccheri vanno bene quando si usa energia. Se io, come dovevo fare tutte le mattine in gravidanza, mi faccio una bella passeggiata di 40 minuti con qualche magari accenno anche un po' di allungo, allora ho bisogno di energia, di pronta disponibilità, e quindi se faccio colazione con un po' di zuccheri sono perdonato, no? Perché lo uso subito. Ma se lo mangio la sera e lo zucchero mi va sul sedere, no? Non va bene, no? Va al bambino, capito? Cioè non va bene, no, assolutamente. Sempre comunque in piccole quantità. Sì, no, ma lei è bravissima. Lei, ho sentito che c'ho queste due cose, ecco, sul pesce che è un ottimo alimento proteico, oli sani, buonissimi, e poi sulla sera il pasto serale, ecco, forse qualche aggiustamento. Sì, ma è bravissima, fantastica. Io sento già che Patrizia è rimasta conquistata dal professor Ferrazzi. Devo dire che con i gatti che non fanno la cacca nel mare ha conquistato anche noi. Vorrei che anche tu, Claudio, stregassi Patrizia e magari anticipassi che cosa hai pensato per lei, come l'aiuterai, perché come tutti noi quando dobbiamo cucinare tutti i giorni un po' la passione, no, cambia, diminuisce. Ma lui l'ha già promesso che farà piatti veloci, magari anche qualche piatto per Patrizia quando vorrà dilettarsi con un pochino più di tempo. Esatto. Ma tu su che cosa punterai, Claudio? Chiaramente punterò su dell'ottima materia prima. Questo ci consente per cui di utilizzare delle tecniche molto veloci. Se già utilizziamo un prodotto molto buono alla fonte, sì, possiamo lavorarlo poco. Avrà bisogno di pochi tocchi per realizzare dei piatti molto molto buoni. Fammi un esempio, sono curioso. Ma per esempio degli spaghetti di zucchine con un ragù bianco di branzino e una crema di pomodoro frullata sotto, per buoni. Cui un piatto che in 20 minuti ci riusciamo a realizzare, ha degli ottimi cromatismi, per cui rende la tavola colorata e divertente, che ma è importante. È un piatto tricolore, peraltro. È un piatto tricolore, ricorda anche, per cui è un piatto patriota. Possiamo spaghetto dire. Integrale, naturalmente. Sì. Sì, no. Questo qui è di zucchine. Questo è vegetale. Poi è totalmente vegetale. Poi si può tranquillamente aggiungere uno spaghetto integrale, per cui potremmo integrare eventualmente questo su consiglio del dottor Ferrazzi. Questo qui io mi appoggio totalmente a lui. Io sì. Creo il gusto sulle basi mediche. Per me questo è un buon gioco. Lo spago una due volte alla settimana, non si può proprio rinunciare. Però integrale, fantastico, con un buon sugo vegetale molto ricco, cioè 50 grammi di pasta e 50 grammi di sugo, ecco, non grande. Bene. Allora, Patrizia, mi sembra che tu abbia già capito che sei in ottime mani. Assolutamente. Sì, fidati, sì, affidati. Come la chiameremo? Perché ormai siamo un po' tutte, diventiamo zie e parenti. Diventiamo ancora una volta zie. Questo è un bel enigma, ancora non è stato sciolto. Lanciamolo, cuore denari. Allora, il dibattito. Tra l'altro, avete il nome per la bambina di Patrizia. Facciamo un totonome in diretta, dico solo che in pole position c'è Caterina, però ecco. Bellissima. Dai, usciamo a fare la spesa. Mandaranci, mele, frutti. E chissà se qualche quasi papà l'ascolta, è stato mandato a fare la spesa da una donna incinta, presa da qualche voglia alle ore più impensabili del giorno e della notte. Insomma, che cosa tipicamente adesso potrebbe venir voglia di mangiare che non c'è, Nicoletta? Non so, dammi un suggerimento. Oh, mamma mia, chiedo al dottor Cruciani, ma adesso guardo. Sì. Le castagne, bravo. Dentifrici e creme trasparenti. Solo questione di gusto. Come vi organizzate per gli acquisti? A cosa fate attenzione? Alla qualità ovviamente degli alimenti, al prezzo, all'etichetta? Pensate comunque anche al risparmio? O in questi 9 mesi passa totalmente in secondo piano? La nostra Patrizia ci ha raccontato che fa la spesa con suo marito per alcuni acquisti come i latticini, va al supermercato, ma anche un orto urbano e un salumiere di fiducia. Insomma, una spesa, vedi? Anche se qualche sì, esatto, diversifica ottimamente i suoi fornitori, anche se in realtà in questo frangente qualcuno dice che il salumiere lo dobbiamo proprio salutare, no? Poi magari ci torneremo. Luciano Mazzone, amministratore delegato di Clicca Promo, pazzi per le offerte, bentornato. Buongiorno a tutti. Lo possiamo definire il nostro coach di risparmio per i protagonisti di Cuore Denari Expo. Clicca Promo, lo ricordo, pazzi per le offerte, compare i prezzi e le offerte della grande distribuzione e ogni settimana ci dà una mano ad individuare molte opportunità di risparmio. Allora, commentiamo la scelta di andare, Luciano, al supermercato solo per alcuni acquisti, no? Potrebbe anche dipendere dalle offerte, concentrarsi solo sui prodotti davvero convenienti, ma con il tempo poi diventa un'abitudine, ci impigriamo anche un po' in questo senso. Certo, beh, sicuramente per fare acquisti in punti vendita differenti bisogna avere del tempo, quindi è una questione anche di propria organizzazione personale. Al supermercato si trovano offerte su tutte le merceologie, anche quelle vendute dai negozi tradizionali, quindi è una scelta poi personale da questo punto di vista. Cuore e denari Expo. Oggi scegliamo questi due prodotti, Nicoletta. Ricottina. Sì. Ricotta e marmellata. La confettura, ne stavamo parlando a microfoni spenti. Io mi lamento del fatto che sono tutte troppo dolci, anche essendo una golosa in realtà li trovo un po' troppo stucchevoli, quindi faccio proprio fatica a trovare il gusto che mi piace e vado solitamente sull'arancia, perché comunque chi è che ha detto ottimo? Io. Perché, professore? Ma perché appunto può anche essere, non sono incinta, voglio rassicurare, può essere anche fatta essere molto di qualità, di buon gusto, con senza zuccheri aggiunti, perché proprio il gusto della marmellata d'arancia è proprio quello. Allora, li acquistate, ascoltatori, come li trovate commercializzati, quanto costano al supermercato sotto casa vostra, in che formato li acquistate per cucinarli, in che modo? La marmellata magari si mette sulla crostata, la ricotta anche, non fa male mettercela ogni tanto. Che prezzi abbiamo trovato, Luciano Mazzone? Ma allora, per la marmellata si riescono a spendere anche meno di 2 euro in offerta, con un prezzo che scende dai 2,70 euro a 2,80 euro per un classico vasetto da 240 grammi che appunto può scendere anche sotto la barriera dei 2 euro con un risparmio dell'ordine del 25-30%. La ricotta tipicamente in vaschetta da 250 grammi e può costare a prezzo pieno intorno all'euro e 30, in offerta anche 0,80 o addirittura, certo, nei casi più aggressivi 0,65. Anche se in realtà molti supermercati, la ricotta aggressiva te la immagini lì, no? Che si alza e ti aggredisce, magari quella che si vende al banco della gastronomia, perché non è detto che ne possiamo comprare solo 250 grammi in vaschetta, no, si può andare anche in gastronomia, certo, al supermercato, a prenderne un po' di più. Assolutamente. La consigliate quella, Tilio Speciani? Ma devo dire che la ricotta è un bello strumento, perché quando un bello sono... strumento, sì, sì, aggressiva, uno strumento. È uno strumento facile, perché in realtà, essendo ricca di caseina, che quindi viene assorbita abbastanza lentamente, ha un indice glicemico basso. Queste sono proprio delle caratteristiche per cui la proteina presente nella ricotta evita di avere quell'eccesso di grassi e proteine che vengono assorbiti immediatamente, eccetera. Lattosio, eccetera. Perché quindi, in realtà non è un formaggio, ricotta. Tecnicamente di fatto si chiama ricotta, perché tecnicamente però tutti posso lo chiamiamo però andare contro tendenza, cioè per il vostro bambino scegliete la qualità, non il prezzo, perché state dando da mangiare non a voi per 30 anni ma al vostro bambino per 9 mesi. Scegliete la qualità. Non lo giudica un alimento di qualità la ricotta. No, no, no, sto parlando dei prezzi e delle offerte. Dovete lavorare sulla qualità, su tutto, Volevo sentire Claudio sulla ricotta. È un prodotto molto versatile in cucina, nella versione dolce e salata si può lavorare con facilità, vero? Assolutamente sì, anche io consiglio la qualità. Faccio un esempio, un'ottima ricotta piemontese di Seiras, per cui abbiamo qua quella che si mette nella telina un po' a forma, esatto, di cono, quella magnifica. Secondo me è una delle migliori, mescolate con una marmellata di arance senza zucchero è un dessert tra una colazione, con due mosse, un'ottima colazione. Io l'ho mangiata questa mattina. Tra l'altro il Seiras si trova anche al supermercato, io l'ho trovato. Possiamo fare una nota alla colazione, visto che parliamo di colazione? Sì, vediamo, finiamo, perché prima dobbiamo monetizzare, andare a fare la spesa. Esattamente, certo. Abbiamo fatto un po' il bilancio per la nostra Patrizia. Segnalo subito che abbiamo già un inviato comunque di Cuore Denari Expo. Ci ha scritto Giuseppe a cuoredenari@radio24.it, ci parla di un brand della grande distribuzione molto noto in Lombardia, non cito quale è, ma ci sarete arrivati tutti. 250 grammi di ricotta, 74 centesimi. Qua veramente abbiamo toccato il fondo, siamo andati anche al di sotto delle offerte trovate da Clicca Promo. E il marchio di questa ricotta è quello dell'insegna della grande distribuzione. È una delle possibilità, ovviamente. Magari volevo fare solo un piccolissimo commento sulla qualità. In questo caso parliamo di offerte di grandi marche, le più note, non sto neanche io a citarle. Ecco, solo per dire che un prodotto in offerta scontato magari 30-40% non è detto che voglia dire sacrificare la qualità, anzi spessissimo sono i prodotti che pagheremo molto di più a prezzo pieno che vengono. Però i prodotti sono tracciabili, no? Da dove arrivano, certo, quando sono stati fatti, quando scadono, e quindi a volte le offerte gestiscono invece i magazzini, quindi forse un po' di attenzione a queste capita cose. Capita anche questo, ovviamente. È un nostro grande cavallo di battaglia. Ci lasciamo solo per qualche minuto, una piccola pausa e poi i consigli di Cuore Denari Expo per l'ottava e ultima categoria, famiglia con figli. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito, forse anche da sola. Sono Annerita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24. Il sabato alle 16 e la domenica alle 17:30 su Radio 24. Cuore e denari. Nico, è giunta alla fine di questa settimana di Cuore Denari, siamo arrivate anche all'ultima categoria del nostro reality Cuore Denari Expo. Proprio così, la famiglia con figli, che è stata seguita come tutte le nostre 8 categorie da grandi esperti, in questo caso la dottoressa Lucilla Titta, ricercatrice nutrizionista del progetto Smart Food promosso dallo IEO, insieme al cuoco Roberto Di Mauro. Naturalmente ascolteremo anche oggi le considerazioni del dottor Attilio Speciani, anzi partiamo proprio proprio dai dati che il nostro dottor Speciani ha raccolto analizzando tutti i questionari che i nostri ascoltatori, davvero tanti, numerosissimi, hanno compilato. Dottor Speciani, microfoni spenti, ci ha rivelato che la categoria delle coppie con figli è stata molto numerosa, si è piazzata al terzo posto insieme ai sedentari e agli stressati, dopo over 50 sportivi, come proprio numero di adesioni di partecipanti. Imponente. Ma oltre ai grandi numeri, quindi una categoriona, quali sono gli altri dati che sono emersi da questi questionari? Ma bellissimi, intanto iniziamo a dire che si fa presto a dire coppia, questo direi come titolo iniziale del riferimento, perché in realtà uno dice questo, non è, in realtà ci sono state persone con delle tipologie un po' diverse. Padri soli con figli, un genitore tornato a casa dai propri genitori, sì. E insomma la situazione ovviamente può essere anche un po' variegata, però mediamente, come spesso avviene nel sociale, quindi nelle coppie, più facilmente è il femminile ad occuparsi dell'attività. Infatti hanno risposto al questionario all'interno della coppia, direi l'86% di chi ha risposto era donna, quindi questo è un dato sicuramente interessante. Distribuzione, devo dire, molto varia, perché ci sono stati tendenzialmente paesi nel 38%, cittadine 17%, capoluoghi di provincia 17%, campagna 14%, molto, molto ben distribuiti rispetto alle tipologie iniziali, e dobbiamo dire che alcune situazioni sono abbastanza positive. L'esercizio fisico è fatto, è una popolazione mediamente attiva, questa delle coppie, dice che 2-3 volte alla settimana effettivamente si muove, soprattutto camminate. Una popolazione quasi a livello degli sportivi per quanto riguarda il self-measurement, cioè l'utilizzo di bilance impedenziometriche piuttosto che di apparecchi per misurare i passi e cose di questo genere. E poi invece c'è un tema estremamente interessante, che è quello del figlio come induttore di consapevolezza. È una domanda che era presente proprio all'interno della disquisizione dei questionari, e posso dire la presenza di figli ha cambiato in positivo le abitudini di quasi il 40% del campione. Dottoressa Tita, una categoria un po' impegnativa, no? Quella che le abbiamo assegnato, perché mette insieme non solo le esigenze di due adulti, un padre e una madre, che oltre a essere presi dalle loro responsabilità genitoriali, anche il lavoro a cui pensare, giornate più o meno stressate, e i figli, due generazioni diverse, due gusti anche diversi, e quindi bisogna fare un po', no? Cercare di quadrare il cerchio. Come è riuscita nei suoi menu a soddisfare le esigenze di due età così diverse? Come ha potuto accomunare le stesse ricette a fabbisogni nutrizionali differenti? Allora, è sempre il mio obiettivo quello di creare per, diciamo, sia la persona che mi richiede un programma alimentare, qualcosa che vada bene per il suo contesto. Quindi sì. io non tengo mai, o insomma raramente o in casi specifici, in conto solo il soggetto, perché credo che non sia efficace che ognuno abbia il suo menù, no, sia dal punto di vista pratico, economico, sia dal punto di vista anche proprio dell'educazione alimentare. Quindi la famiglia mi piace moltissimo, mi stimola, e poi anche quello che insomma pratico, certo, in casa diciamo da me, e poi sono partita anche dal principio per cui è vero che ci sono fabbisogni diverse per età diverse, per genere, quindi donna, uomo, eccetera, però è anche vero che è una questione più quantitativa che qualitativa, cioè le verdure fanno bene ai grandi e ai piccoli, cioè tutti hanno bisogno di vitamina C, di carboidrati, di proteine, di grassi essenziali. Poi ovviamente l'adulto ne avrà bisogno di più e il bambino di meno, certo. E quindi è più una questione di porzioni in realtà che di composizione del pasto, poi non conoscendo poi le persone ovviamente. Noi tra poco andremo a conoscere i nostri protagonisti, mm-hmm. Ma Roberto, la prima cosa che mi viene in mente da pensare, immaginando una mm-hmm. cucina con bambini, tornando un po' indietro nel tempo, che bambini, no? Che scorrazzano da una parte all'altra, e sono la velocità e la praticità, no? Come coniugare allora queste, la semplicità e la rapidità di preparazione con il gusto, cioè dobbiamo preparare velocemente dei piatti buoni. Uno, avere dei figli bravi, credo sì. che nessuno. E quella lì, sì. E quella lì è fortuna. Assolutamente. Io pazienti, cosa... bravi, assolutamente, pazienti. Che mangino tutto, eccetera, eccetera. No, i miei non sono così perché ne ho due, uno di 9 anni e una di 6, quindi sperimento con loro queste cose, cerchiamo di cucinare insieme. E ti mettono alla prova? Ma moltissimo, moltissimo. Criticano? Assolutamente sì. Si impuntano? Ma vedo che sei esperta, sì. Okay. L'ho avuto anch'io. Adesso okay. Mangiano. Una parola, quello che cerco di fare ogni volta che cucino con loro è innanzitutto le ciotole, come diceva Lucilla, di carote, carote baby, dei cetrioli, perché abbiamo sperimentato che si mangiano i cetrioli con la buccia, tagliate a rondelle, loro mangiano i cetrioli, quindi li rimpinziamo in questo modo e nel mentre con farina e altre cose iniziamo a cucinare velocemente. Quello che serve è avere un po' di tecnica in questo, non usare aromi particolarmente spessi eccetera, dei piatti semplici, anche una pasta al pomodoro, delle verdure solo bollite, quindi delle cose veloci che loro apprezzano e che possano veramente avere un gusto semplice, unico, non modificato. Quindi queste cose sono le cose che apprezzano di più e sono più veloci da preparare, perché i bambini amano i gusti semplici, ma non sono per certi versi anche monotoni quando hanno il loro piatto, assolutamente vogliono sempre quello. È compito nostro cercare di rendere la loro dieta meno monotona, più equilibrata e più varia. Andiamo a sentire? Allora andiamo a sentire adesso dopo questo primo scambio di battute con i nostri coach di oggi, direi che è ora di presentarvi la famiglia che andrà a seguire le ricette che appunto i nostri esperti hanno preparato e che da questo pomeriggio troverete anche voi tutti ascoltatori da casa sul nostro sito di Cuore e Denari Expo. Sentiamo. Luciano è sposato con Daniela e insieme hanno due bambini, Giovanni di 5 anni e Federico di 1. Facciamo l'impossibile per portare i bambini sempre fuori, ci piace portarli al parco giochi, ci piace portarli in montagna, già anche quello piccolo ha cominciato a fare le sue gite nello zaino in montagna, in compagnia. Quando i bambini fanno c'è un topolino. Quando sono nati i nostri figli stiamo più attenti all'alimentazione. Prima quello che c'era si mangiava, si apriva il frigo e andava ben tutto. A casa di Luciano la spesa la facciamo sia io che mia moglie nei mercati rionali. Per quanto riguarda la frutta e la verdura cerchiamo quella a chilometro zero. Quando però non è possibile si va al classico ipermercato. Ma amore, ma sono le 7:30, ma l'iper chiude alle 9:30. In cucina invece quello che sperimenta in casa sono io. La pasta asciutta è quella che va per la maggiore. Classici spaghetti col pomodoro, semplicissimi, con un po' di grana o con un altro formaggio che fonde dentro il pomodoro, per loro va benissimo. Luciano, la tua famiglia è la nostra candidata per la categoria della coppia con figli a Cuore Denari Expo. Cosa ti aspetti da questa esperienza? Mi sono iscritta alla vostra trasmissione per imparare a cucinare qualcosa di diverso. E a volte fai fatica anche a comprare il riso integrale, ma come si fa questo riso integrale o il riso nero o gli spaghetti al farro? Questa sfida sarà solo l'inizio di un nuovo modo di mangiare, un nuovo modo di vivere. Luciano in linea con noi. Luciano, benvenuto. Eccomi, sono pronto. È pronto. Sentiamo subito a caldo le impressioni dei suoi due coach. Lucilla Titta, che idea si è fatta di Luciano? Ma mi sembra molto entusiasta e con molta voglia di cambiare, classico insomma nell'essere un po' come dire anche un po' spaventato rispetto a certi alimenti che magari ha sentito essere salutari ma che non sa come affrontare, non sa come proporre, e quindi cercheremo di aiutarlo in questo. Lo aiuterai naturalmente anche tu? Certamente, Ti darò le 2-3 dritte che servono per cucinare velocemente e in salute. Perché diceva ad esempio il riso integrale è, insomma è abbastanza lungo come cottura, è vero che tanto che il riso ormai che cuoce, ecco, ma possiamo usare anche le varianti, certo, con cottura più rapida? Certamente, anche perché sono generalmente precotti a vapore e quindi non c'è nessuna controindicazione non utilizzare cereali che sono a cottura veloce. Cuore e Denari Expo. Diciamo che ci sono due aspetti per cui è molto importante l'alimentazione dei bambini, diciamo tra i 3-4 anni, diciamo nel periodo delle elementari, dichiamolo così. Il primo è fisiologico, il secondo è educativo. Sì. Quindi l'aspetto fisiologico è importantissimo, perché in Italia abbiamo un'incidenza di obesità infantile molto alta, e ormai sappiamo che un bambino obeso, sovrappeso obeso in quella fascia d'età è condannato a, nell'80% dei casi, a combattere col sovrappeso e l'obesità per tutta la vita. Quindi magari i genitori non si rendono conto, perché c'è ancora un po' questa idea che il bambino nell'età in carne dello sviluppo smagrisce, sia, si dice, mentre no? Invece si ha poi una incidenza di malattie correlate all'obesità che insomma è altissima, che se nessuno si augura per i propri dato figli, che si possono evitare, perché non farlo? Diabete tipo 2, ma anche tumori, malattie cardiovascolari, ormai ci sono queste correlazioni che sono dimostrate e condivise a livello scientifico. Quindi questo è molto importante, anche proprio il numero di adipociti, ci sono anche studi molto precisi, la grandezza, se si aumentano in quella fascia d'età poi è difficile tornare indietro. Dei danni anche durante, cioè la sovrappeso-obesità anche nei bambini, proprio danni fisiologici, aumento della possibilità di avere appunto aterosclerosi, insomma veramente abbiamo molti studi, e quindi il sovrappeso nuoce anche ai bambini. Assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Parolo delle langhe? No, aleatico dell'Elba? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Piccola pausa, poi però chiudiamo in bellezza questa settimana speciale con il meglio di Cuore Denari Expo, con i nostri mestieri del cibo e con un editoriale in rosa. Cuore e Denari. Certo, la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna. E questa canzone cade a fagiolo, è particolarmente appropriata perché proprio di chi lavora la terra andremo a parlarvi tra poco. Siete sempre in compagnia di Cuore Denari Expo, il nostro reality che parla di alimentazione consapevole in linea con i temi di Expo. E come sempre questa è l'ora dei mestieri del cibo. Debora. È il momento di scoprire uno dei mestieri che orbita proprio intorno al mondo del cibo e dell'alimentazione, uno spazio che realizziamo grazie al Sole 24 Ore e a Food 24, dove trovate i contributi video che vi permettono di conoscere i protagonisti delle professioni che vi raccontiamo. E se dico Food 24 dico anche Fernanda Roggero, che salutiamo, ben ritrovata. Ciao. Grazie, buongiorno a tutti. Dove ci porti oggi? Andiamo veramente a parlare dei frutti della terra e a scoprire anche un mestiere che ha molto del tradizionale ovviamente, ma con delle vocazioni innovative ormai veramente interessanti. Allora vi porto in campagna, vi porto nei campi, anzi vi porto dentro le serre, che devo dire quando siamo andati a fare il video c'era un 36 gradi e quindi sta fuori, è stato abbastanza complicato. Il mestiere dell'agricoltore è completamente cambiato negli ultimi 10 anni, sono sempre più i giovani che decidono di fare questo mestiere, quasi 17.000 nuove imprese dal 2010 ad oggi sono state fatte da giovani under 30. E poi un'altra cosa bella è che un'impresa su 3 è al femminile, e quindi anche questo è interessante, abbastanza diverso dal solito. E è un mestiere che cambia perché si usano le tecnologie in varie modalità, sia un semplice computer, un iPad con cui si fanno partire determinate operazioni, il GPS, chi è più avanti usa i droni nei campi, quindi insomma è proprio un mestiere che ha cambiato faccia. Certo. Totalmente. Pensa che abbinamento eccezionale, il territorio italiano, il nostro clima e la tecnologia che ci aiuta a valorizzare al meglio questa nostra ricchezza. Lo sa molto bene Cristiano Lorenzini, che è il nostro protagonista della rubrica Mestieri del Cibo di oggi. Con la sua famiglia ha creato e gestisce un'azienda agricola che ha delle caratteristiche molto particolari e moderne, di cui lui oggi è coordinatore delle attività produttive produttive. Buongiorno Cristiano e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, a tutti e a tutte. Grazie. Le faccio fare un biglietto da visita da Fernanda Roggero per poi andare a scandagliare un po' meglio le caratteristiche della sua attività. Sì. Allora, l'attività di Cristiano è particolare perché loro sono i re dei meloni. In particolare sono stati i primi ad usare le tecnologie direttamente sul singolo frutto e anche la certificazione non sul sistema produttivo ma su ogni singolo frutto, perché ogni singolo melone viene passato, adesso lui ci spiegherà meglio qual sì. è la tecnologia, però in pratica su ogni singolo melone loro sanno qual è il grado zuccherino e quindi qual è il grado di maturazione perfetto. Si apre una carta d'identità del frutto che si ha in mano con il grado zuccherino. E quella è la cosa più importante, la cosa più spettacolare del frutto proprio che si ha in mano. Poi si apre una mappa dove è stato raccolto il frutto, dell'appezzamento dove è stato raccolto il frutto, e diamo la disponibilità di tutte le varie date delle operazioni colturali che abbiamo fatto. Quindi una carta esatto. d'identità super dettagliata. Assolutamente. Cristiano, sì. dov'è la vostra azienda? Quante persone impiegate? Un'azienda, mi pare di capire, di origine familiare, no? Oggi quali sono le vostre difficoltà nel fare un'attività di questo tipo? Perché ci raccontava anche Fernanda Ruggero prima che ormai moltissimi ragazzi si stanno cimentando nel diventare imprenditore nel settore sì. agricolo. È consigliabile o no? Cioè, abbiamo fatto una domanda che potrebbe permettere a Cristiano sì. di andare avanti due ore. Da dove vuoi partire? Ah, niente, la nostra azienda copre circa 500 ettari di terreno su ortofrutticoli. Nel Mantovano, giusto? Come? Nel Mantovano, giusto? Allora, 380 ettari sono dove c'è il centro aziendale storico nel Mantovano a Sermide. E 120 ettari invece giù in Sicilia, ormai a Pachino. Da 19 anni, a Pachino. Nella valle del pomodoro hanno diversificato l'attività dal punto di vista territoriale. Pachino. Esatto. Sì. Azienda totalmente familiare anche se ci avvaliamo di validi collaboratori perché comunque è un'estensione veramente grossa, però familiare. In famiglia siamo in cinque, c'è mio padre, mia madre, io, le mie due sorelle con i rispettivi mariti e mogli, mio cugino e poi tutti i collaboratori. Certo. Una grande famiglia. Esatto. Senti, io come sono la famiglia. Donna di cuore, allora mi spieghi come riuscite ad andare d'accordo, qual è il segreto per lavorare insieme in famiglia? Allora, andare d'accordo è una parola grossa, eh? Vabbè, no, ma perché si impara anche a litigare bene. Ti tiro un melone in testa. Sì, i litigi sono costruttivi. Vero? Perché comunque è una famiglia che si basa sulla passione della terra, quindi la passione è unica. Quella è la prima cosa. Certo. In più, come azienda, siamo stati i primi in Italia a essere certificati sul sistema, perché con delle dimensioni così e 300 operai, 300 dipendenti, collaboratori, abbiamo appunto creato un sistema di lavoro dove ogni cosa è scritta e nulla è dato al caso. Nessuno si deve inventare niente. Certo. Grazie a Cristiano Lorenzini per essere stato con noi. Una bellissima attività, quella della Lorenzini Natura Amica. Vado a lavorare, ma stasera che si fa? Qual è invece il mestiere del cibo di questa settimana che ci racconti, Fernanda? Il mestiere del cibo di questa settimana è il food tracker. Tradotto per i comuni mortali? O gli italiani? Praticamente sono quelli che cucinano sui furgoncini, prevalentemente a Pecar. Ci dobbiamo proprio. Stanno veramente andando per la maggiore, è la nuova tendenza. Antonio Dell'Ermo, nostro food tracker di oggi, che conosciamo e ci facciamo raccontare come ha deciso di avviare questa professione. Un trentenne molto, molto creativo e molto fantasioso. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie per avermi contattato. Allora, non è proprio un mestiere improvvisato quello del quale parliamo oggi, letteralmente come ci diceva Fernanda sarebbe camionista del cibo, in realtà parliamo di professionisti giovani, spesso laureati, sì. appassionati di cibo. La tua storia, Antonio, qual è? Allora, la chiave di tutto è proprio la passione per il cibo e la voglia di riscoprire quelle tradizioni che con la globalizzazione odierna sono state dimenticate. In pratica noi serviamo tutto quello che è derivato dal mondo della farina, quindi pizze, panini fatti col pane della pizza, pizza fritta. In sostanza il segreto, diciamo, di questo lavoro è molta passione, cura per i dettagli, continuo aggiornamento e cercare comunque, certo, di innovarsi rispetto alla tradizione, perché i gusti comunque cambiano, e cercare di adattarli rispetto alle esigenze del consumatore in modo da rendere un prodotto tradizionale, certo, ma sempre vivo ed interessante. E con il nostro food tracker abbiamo completato anche il ciclo dei nostri mestieri del cibo e siamo proprio arrivati alla fine di questa settimana dedicata al meglio di Cuore Denari Expo. E come d'abitudine concludiamo la puntata con un editoriale sui temi dell'esposizione universale e chiudiamo, d'altronde Deborah non poteva essere così, con un editoriale tutto al femminile. Sentiamo cosa ha raccontato ai nostri microfoni Claudia Parzani, che è presidente di Valore D, a cui abbiamo chiesto quali sono i valori che questa associazione ha voluto portare e sottolineare ad Expo. Cuore e Denari Expo. Un editoriale che dedichiamo ai temi dell'esposizione universale come sempre, ma in questo caso, come anticipato, un editoriale in rosa perché è proprio dedicato a noi. Buongiorno e grazie per essere con noi a Claudia Parzani, che è presidente di Valore D. Buongiorno, buongiorno e benvenuta. Buongiorno presidente. A voi. Benvenuta. A beneficio di tutti i nostri ascoltatori. Avvocato, ci racconti che cos'è Valore D e che cosa succederà a Expo? Certo, con enorme piacere. Allora, Valore D è un'associazione. È un'associazione di aziende nata ormai 6 anni fa e che oggi conta 143 aziende, che lavora per la promozione del talento femminile, per mettere le donne nella condizione di poter avere pari opportunità nel contesto lavorativo. L'associazione lavora su cantieri diversi e con questi cantieri lavora per promuovere il talento individuale delle donne, per cambiare la cultura all'interno delle aziende in Italia, ma per cambiare anche la cultura all'interno del paese. I modi in cui lavoriamo sono molti e sono diversi, però tra i più importanti credo che ci sia quello di portare donne come esempio, quello che gli inglesi chiamano il role model. Lavoriamo sulla formazione di queste donne, quindi su tutti quelli che sono delle parti di accrescimento di cultura, sulla parte del cambiamento appunto culturale che noi chiamiamo social innovation, e poi lavoriamo su tutto quello che è il mondo del cosiddetto welfare, cioè tutto il mondo di quello che è il supporto alla vita delle donne. Quello che vogliamo fare passare è un messaggio di importanza della diversità e dell'importanza dell'inclusione. L'idea è che l'associazione si è messa a disposizione e ha accolto con entusiasmo i progetti di Expo, ma soprattutto ha deciso di stare dalla parte di quelle donne che in questo momento nel mondo sono invisibili, che sono le donne che coltivano la terra, che sono le donne che danno mangiare alla famiglia, sono donne che hanno 20 ore di giornata lavorativa e che traggono dalla terra che cosa? Solo semplicemente quello che serve a loro per mangiare e per sopravvivere in uno stato di povertà. Quindi l'idea è quella di portare le esperienze, i progetti, le voci delle aziende associate, ce ne sono oltre 30 di Valore D che parleranno, che racconteranno attraverso i loro progetti che sono importanti, che sono unici, come stanno permettendo a tutti noi di poter immaginare un futuro che sarà un futuro migliore anche per noi che stiamo qui, perché è un futuro che passa per la sostenibilità, è un futuro che passa per l'emancipazione delle donne, per una comprensione della finanza, per una comprensione dell'agricoltura, è un futuro migliore nel mondo dell'energia, nel tema del cambiamento del clima, per esempio. È un futuro che combatte l'obesità e vince la fame. Grazie. Grazie all'avvocato Claudia Parzani, presidente di Valore D. E ora Deborah, siamo pronti ai titoli di coda. Si conclude questa settimana dedicato al nostro progetto, il nostro reality Cuore Denari Expo. Ma non dimenticate naturalmente che tutte le puntate di Cuore Denari Expo, così come tutte le altre nostre trasmissioni, possono essere riascoltate e riascoltate anche in podcast sul sito di Radio 24. E proprio sul sito di Radio 24 trovate la sezione speciale dedicata a Cuore Denari Expo, con tutte le ricette, i consigli, le liste della spesa per i nostri 8 protagonisti, quindi identificatevi e seguite i consigli dei nostri esperti. Però non possiamo non ricordarvi che Cuore Denari non vi abbandona mai, naturalmente torniamo lunedì in diretta a partire dalle 11. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e ancora Buone vacanze se le state ancora facendo, dalla donna di Denari e dalla donna di cuore.